9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon inizio di settimana, buon inizio di autunno. Finalmente si sono abbassate le temperature. Io devo dire la verità che, siccome non amo molto le temperature che inducono alle vacanze e a stare troppo buoni sotto gli ombrelloni, non ne potevo più. Quindi meno male, si inizia finalmente con temperature più consone alla necessità di lavorare di più. Oggi 19 settembre, San Gennaro. Di San Gennaro, voi capite che anche per chi non è scaramantico bisogna iniziare dicendo buon San Gennaro a tutti, e in particolare ai napoletani che ieri saranno felici con quello che hanno fatto allo stadio. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo di ciò di cui i lettori del Corriere della Sera hanno in qualche misura letto, se sono stati mattiniere, nell'editoriale stamattina firmato da Francesco Giavazzi e Alberto Alesina. Oggi parliamo di una delle strade che bisogna battere con grande energia e che la politica invece non percorre nel nostro paese, e che bisogna battere a maggior ragione quando si è nelle condizioni in cui ci troviamo, cioè nelle condizioni in cui siamo sotto accusa e sotto il faro dei mercati. Oggi si prelude una brutta giornata sui mercati finanziari, come avete saputo, come avete letto e ascoltato sui futures, in apertura dei mercati segno in meno dovunque, perché per il nostro alto debito, perché da 15 anni non cresciamo e perché siamo ad alta pressione fiscale e ad altissima spesa pubblica, e ciò malgrado, mentre reggiamo in piedi solo perché la BCE acquista i nostri titoli, abbiamo fatto altre manovre in cui aumentano le entrate di 100 miliardi per i prossimi 3 anni, 70 ad azzeramento del deficit, 30 a copertura di nuove spese, cioè inseguiamo l'equilibrio del bilancio pubblico ancora una volta, come sempre ha fatto la politica italiana, non per la via virtuosa ma per quella viziosa, quella di aumentarvi ulteriormente la pressione fiscale e la spesa, come se non fosse dimostrato che questa è la maniera attraverso la quale questo paese, che cresce pochissimo da 15 anni, cresce ulteriormente ancora meno. Ergo, invece, che cosa ci insegna la storia dei consolidamenti del bilancio pubblico recente, degli ultimi decenni, nella contemporaneità dei paesi avanzati, dall'Australia alla Nuova Zelanda, dall'Irlanda ai paesi dell'est? Ci insegna in buona sostanza 3 cose. Primo, che quanto più alto il prelievo e la spesa, tanto più il raggiustamento va fatto per via di riduzione di spese e di entrate e non di aumento. Secondo, a chi riobietta che questo ha delle conseguenze di diminuzione della domanda pubblica, cioè di ulteriore contrazione in paesi che già crescono poco, l'esperienza di questi paesi è che invece ciò che si perde in domanda nel breve, tagliando la spesa e abbattendo le tasse, si guadagna molto di più quanto più si accompagnano queste misure con apertura del mercato, più concorrenza che, con la minore pressione fiscale, abbattimenti agli ostacoli all'entrata, implicano per tutti i settori che non ne sono ancora interessati in una economia, aumento dell'efficienza dell'allocazione dei fattori produttivi e traduzione a favore del consumatore in più bassi prezzi per migliore qualità di prodotti e servizi. Il terzo punto è che le liberalizzazioni, l'apertura alla concorrenza, che pure in Italia non sono, dal punto di vista della priorità nazionale, condivise né tanto dalla politica. Avete visto che fino hanno fatto quei pochi accenni che erano entrati nella manovra bis dagli ordini professionali dei servizi pubblici locali, né nei cittadini, perché da noi l'obiezione è: ma se si toccano le organizzazioni chiuse dei mercati, dei prodotti, dei beni, servizi, poi ci perdiamo nell'occupazione anche lì nel breve. Verissimo, tant'è vero che noi abbiamo un mucchio di mercati non aperti alla concorrenza per tutelare i posti di lavoro come sono e dove sono, ma anche qui l'esperienza negli altri paesi comparata, che bisogna studiare bene, e che le aperture del mercato settore per settore producono un fiorire di offerta, aumento di imprese, aumento di occupati, aumento della domanda e dell'offerta a migliori condizioni. Quindi non è vera né l'obiezione generale né quella particolare. Allora, oggi perché parliamo di liberalizzazioni? Perché è uscita l'edizione 2011 dell'Indice delle liberalizzazioni italiane, la guida che ogni anno l'Istituto Bruno Leoni aggiorna settore per settore, facendo il punto in termini comparati di quello che è avvenuto negli ultimi dati ufficiali a nostra disposizione per 16 comparti dell'economia italiana, e in ognuno di questi fa un esame comparato con il miglior paese europeo benchmark. Rispetto a quel paese si fa un punto della situazione per capire dove stiamo andando. I 16 settori riguardano sia settori che hanno a che vedere con infrastrutture, dove naturalmente per un'apertura alla concorrenza deve fare i conti con la regolamentazione di un'infrastruttura fisica o di distribuzione, settori cioè come l'elettricità, il gas, i servizi idrici, le telecomunicazioni, il trasporto ferroviario, il trasporto pubblico locale, le autostrade, sia servizi non infrastrutturali come la televisione, le poste, il trasporto aereo, i mercati finanziari, gli ordini professionali, quest'anno si è aggiunto anche il mercato dell'arte nell'esame comparata, sia poi dei comparti che hanno un'importanza trasversale perché influiscono attraverso la loro regolamentazione come condizione di efficienza o inefficienza nell'allocazione dei fattori dell'intera economia, e cioè il mercato del lavoro, il fisco e la pubblica amministrazione. Con questa edizione nuova della guida liberalizzazioni, potete trovarla se andate sul sito dell'Istituto Bruno Leoni e ordinare il dischetto, se non volete lo stampato. Facciamo un punto, un passo avanti o un passo indietro, no, rimaniamo fermi. Come da anni nelle osservazioni del Bruno Leoni, la quota complessiva dell'apertura rispetto ai paesi benchmark più avanzati per ciascun settore torna a quella che era nel 2009, cioè si va un punto avanti o un punto indietro, ma insomma in buona sostanza non ci sono stati grandissime novità. Noi abbiamo dei settori nei quali il livello di apertura del mercato è diciamo accettabile, l'elettricità è quello per esempio che dal 2007 al 2011 è passato da 62 a 72 punti, la finanza è a un livello di apertura accettabile, siamo a 69 punti, ve ne sono alcuni in cui eravamo più avanti e siamo tornati indietro, il trasporto aereo dove siamo a 62 punti, il gas anche siamo a 62 punti, poi per il resto tutti gli altri settori sono sotto quota 50, dagli ordini che sono quota 47, trasporto pubblico locale 44, poste 47, ferrovie 36, eravamo molto più avanti, siamo arretrati per via delle norme del 2009 che hanno praticamente su tutto il trasporto ferroviario locale stabilito il 6 più 6 a favore delle ferrovie dello Stato, e tutte le regioni tranne una hanno aperto, condisceso a questa norma. Una, Piemonte, ha fatto gare private, Arena West è già finita, gambe all'aria con i libri in tribunale. Questa è la condizione generale. Come e perché secondo voi si fa poca liberalizzazione e bisognerebbe farne di più? Ci credete davvero o qualcosa non vi convince e preferite difendere le nicchie di coloro che detengono la difesa sui bastioni degli ostacoli all'ingresso settore per settore? Questa è la domanda che facciamo ai nostri ascoltatori. Intanto gli ospiti in questa prima parte della trasmissione, che sono tra coloro che hanno messo mano e penna e testa alla guida liberalizzazione 2011 su Bruno Leoni, e cioè Carlo Stagnaro, che è il direttore di ricerca e studi del Bruno Leoni stesso. Buongiorno e grazie a te Carlo. Buongiorno. E il professor Ugo Arrigo, che insegna scienza delle finanze presso l'Università di Milano Bicocca. Buongiorno professore. Buongiorno. Allora, Stagnaro, dovesse dire il punto forse più significativo in cui ci siamo discostati in bene e in male, su cui fa il focus l'edizione di quest'anno, qual è? Ma sono tre i settori dove abbiamo registrato dei cambiamenti rilevanti rispetto all'anno scorso. In due casi meglio, ma meno di quanto avrebbe potuto essere, e in un caso invece verso il peggio. I due casi che hanno registrato un significativo miglioramento sono il mercato del gas naturale, che cresce dal 55 al 62% di liberalizzazione, e i servizi postali, che crescono dal 41 al 47%. Perché questi due settori migliorano? Nel caso del gas naturale, va precisato naturalmente che il nostro indice, basandosi su dati quantitativi che vengono messi a disposizione dell'esame pubblico con un certo anno di ritardo, lavora su dati che quindi si riferiscono al 2009-2010. Nel caso del gas naturale il miglioramento è essenzialmente dovuto al fatto che è entrata in funzione una nuova infrastruttura, cioè il rigassificatore di Roviego, che è la prima infrastruttura di importazione del gas in Italia che non è controllata dall'ex monopolista, e questo determina contemporaneamente un aumento della quantità di gas potenzialmente disponibile sul mercato e una diversificazione dell'offerta, che è un elemento importante e soprattutto un elemento nuovo nella parziale liberalizzazione del settore del gas in Italia. Nel caso dei servizi postali l'indice migliora, e migliora sensibilmente dal 41 al 47%, essenzialmente in virtù del recepimento della terza direttiva postale europea. questo miglioramento non va confuso con un giudizio positivo, nel senso che l'Italia è obbligata, in quanto Stato membro dell'Unione, a recepire la direttiva, l'ha recepita con l'ottica del minimo sindacale, per così dire. Laddove la direttiva lasciava della discrezionalità, il nostro Paese si è sempre posizionato su un livello di come dire, minore concorrenza, minore libertà e maggiore protezione dell'ex monopolista e tuttora monopolista, che peraltro è una società interamente controllata dal settore pubblico, dal Ministero del Tesoro. Il settore che invece ha registrato l'arretramento più importante, lo ricordava già lei, è quello del trasporto ferroviario, che scende dal 41 al 36%, essenzialmente a causa di una serie di norme introdotte nel 2009 e che sbarrano completamente la strada alla concorrenza nel trasporto pubblico regionale, nel trasporto ferroviario regionale. E lo fanno in due modi. Il primo è allungando la durata dei contratti tra le regioni e il titolare del contratto, che nella larga maggioranza dei casi è evidentemente Trenitalia, dalle durate precedenti, che erano sostanzialmente libere, a 6 anni rinnovabili per altre 6, stanziando dei fondi a favore di quelle regioni, ma solo quelle che rinnovano il contratto col monopolista pubblico, e soprattutto inserendo una norma, che è quella che ha fatto crollare il business di Arena Ways, che è oggetto tra l'altro delle attenzioni dell'autorità antitrust, una norma che dice che l'autorità pubblica può impedire ai soggetti privati esercenti il trasporto ferroviario di fare fermate interregionali qualora questo comprometta l'equilibrio economico del titolare del servizio pubblico, che è una lunga circonvoluzione per dire qualora facciano troppa concorrenza a Trenitalia. Evidentemente questo tipo di norma, questo tipo di regolamentazione è assolutamente incompatibile con un approccio concorrenziale e determina l'impossibilità di avere una vera alternativa. Immagino che l'anno prossimo su questo settore registreremo un'ulteriore contrazione in virtù del provvedimento appena approvato nella manovra bis, nella cosiddetta manovra bis, che estende a tutte le società ferroviarie lo stesso contratto di lavoro valido per l'ex monopolista o per il tuttora monopolista, e anche questo in un settore dove il costo del lavoro è una delle voci di costo più rilevanti è un modo per uniformare l'offerta e quindi impedire la diversificazione, impedire l'innovazione. Una breve considerazione generale, come lei diceva, il valore complessivo che noi abbiamo trovato del 49% è sostanzialmente in linea con i valori degli anni scorsi, quindi se vuole c'è una non notizia nel nostro indice di quest'anno, però in una congiuntura come questa la non notizia è una notizia, se mi permette il bisticcio, nel senso che dà la misura di quante opportunità vengono perse perché consapevolmente e volutamente ignorate. E noi abbiamo messo l'attenzione in questo indice su due elementi che ci sembrano fondamentali verso una prospettiva di apertura concorrenziale, soprattutto in un momento di crisi e di discredito della classe politica come quello attuale. I due punti sono questi. Primo, laddove è necessario che alcuni settori economici siano regolati, è bene demandare l'attività di regolazione a dei soggetti indipendenti, come avviene nel settore dell'energia, che non al caso è quello con le performance migliori. Viceversa, in settori come nell'acqua, che è il fanalino di coda del nostro indice, come nei trasporti e come nelle poste, la regolazione è demandata ad appendici del governo, che quindi sono sensibili ai cicli politici. E l'altro elemento è: liberalizzare vuol dire mettere tutti i concorrenti su un piano di parità, e perché siano su un piano di parità non devono esserci soggetti pubblici che inevitabilmente finiscono per essere più uguali degli altri, e quindi privatizzare non fa bene solo alle finanze pubbliche, ma fa soprattutto bene alla concorrenza. Oggi il Corriere Economia, legato di inizio settimana dedicato ai temi economici e finanziari del Corriere della Sera, dedica pagina 2 e 3 al rapporto curato dall'Istituto Bruno Leoni. C'è un'intervista al presidente dell'Antitrust, Catricalà, che si sofferma soprattutto sul settore dei trasporti, che è uno di quelli sui quali tradizionalmente il rapporto annuale dell'Istituto Bruno Leoni è costretto a calare calare più la mannaia, per così dire. Quello che mi ha colpito, professor Arrigo, per esempio ieri c'era Corrado Passera, l'amministratore delegato di Banca Intesa, era ospite della trasmissione in onda sulla 7 con Luca Telese e Nicola Porro, che gli facevano delle domande, e a un certo punto le domande sono diventate incalzanti, ritirando fuori la questione di Alitalia. E Corrado Passera era un pochino, per così dire, allontanato per la durezza delle domande, perché gli si chiedeva dell'onere a carico dello Stato e del contribuente. La sua risposta è stata: ma inutile criticare, qua abbiamo realizzato investimenti addirittura al di sopra di quello che le condizioni di quella impresa, per chi ci avesse voluto chiedere, avrebbero giustificato, e a quel punto noi abbiamo fatto comunque risparmiare lo Stato, eccetera. Le condizioni naturalmente non tanto di latere ma sostanziali con cui è avvenuta quella operazione, che sono le condizioni che ha fatto arretrare le condizioni generali di concorrenza di tutto il nostro trasporto aereo nazionale, quelle continuano a essere abbastanza assenti nel dibattito nazionale, cioè tranne che tra noi addetti ai lavori, per il resto quello che conta è, come sempre, mettere in prima battuta la difesa del maggior numero di occupati, come erano e dove erano. Ecco, professor Arrigo, nel considerare la media del dibattito pubblico nazionale, è o non è questo uno degli ostacoli fondamentali per radicare nell'opinione pubblica, perché chiedano ai politici poi l'apertura ai mercati? Ma è sicuramente un ostacolo, ma deriva dal fatto che la nostra cultura economica, la cultura media del sistema Italia, purtroppo è piuttosto limitata, e quindi non si capiscono, la classe politica non capisce molto bene, non lo capisce l'opinione pubblica, quali sono i vantaggi di un sistema di mercato, di concorrenza. Quindi noi difendiamo della falsa occupazione, difendiamo degli occupati che lavorano in servizi pubblici i quali non sono adeguatamente performanti, i cui risultati economici sono insoddisfacenti, alla lunga questi nodi vengono al pettine, emergono, e quindi si deve poi porre in qualche modo rimedio a casi di crisi in maniera molto diversa da quello che si sarebbe potuto fare ragionando per tempo, riformando per tempo questi servizi. All'Italia è un caso, le ferrovie dello Stato sono un altro, il trasporto pubblico locale è un terzo caso. E bisognerebbe in realtà poi affrontare tutti questi servizi capendo bene quali sono le loro difficoltà, quali sono i loro aspetti problematici, e avviando, ove la proprietà in gran parte ancora pubblica, avviando questi servizi verso il mercato e verso la concorrenza. Il trasporto pubblico locale è uno, perché poi è più facile parlare, magari le occasioni di cronaca sono state tali per cui si è parlato spesso di Alitalia negli ultimi anni, si parla di trasporto ferroviario nel settore a più alta remunerazione, cioè alta velocità, per via del fatto che è un anno e mezzo che siamo in attesa del concorrente che arriva in NTV rispetto a Trenitalia. Si parla un po' meno del trasporto pubblico locale, qui c'è un capitolo nel libro, nell'indice, che è molto significativo. Pensate addirittura, per voi che siete in ascolto, che il principio dell'assegnare il servizio tramite gara in teoria nel nostro ordinamento è arrivato 13 anni fa, 14 anni fa, naturalmente non è mai stato attuato perché si è sempre rinviata la sua attuazione, e quindi il principio generale continua a essere l'attribuzione del servizio in house, oppure la modalità di organizzare gare per cui l'unico che può poi vincere, non solo partecipare alle gare, è l'incumbente, chi gestiva il servizio precedente. Però il fatto che noi abbiamo un servizio totalmente iperregolamentato in Gran Bretagna, il paese benchmark, è deregolamentato al di fuori della grande Londra, implica da noi più di 2 miliardi di euro sussidio a spese del contribuente annuo, e domanda e offerta che è ferma praticamente da 12-13 anni per passeggero chilometro, per capirci, con oneri invece in crescita, e un load factor, cioè il fattore di carico degli autobus che fanno servizio pubblico locale, che è fermo da 17 anni, mentre in Gran Bretagna gli effetti sono stati aumento della domanda, aumento dell'offerta a migliori condizioni. Allora, professor Arrigo, c'è un problema anche, per così dire, dell'intellettuale su questo. Lei diceva è anche un problema degli intellettuali, ma in specifico è un problema degli accademici che fanno economia, o è un problema generale degli intellettuali troppo vicini ai politici, che su questa storia del rischiare domani compromettendo ciò che c'è già ieri invece non ci sentono? C'è un problema anche degli intellettuali consiglieri del principe? Ma direi entrambi. Intanto, diciamo così, noi accademici che ci occupiamo di questi settori non siamo poi troppo numerosi, non tutti siamo d'accordo sull'esigenza, sulla necessità, l'importanza delle liberalizzazioni della concorrenza. Il principe, diciamo così, in generale non ci ascolta. Io ho passato quasi un decennio, insomma, gli anni 90 ho trascorso più tempo nei ministeri che nel mio dipartimento, nel mio ateneo, ovviamente col permesso del mio ateneo, e però anche allora abbiamo ottenuto qualche risultato che è stato transitorio, ma di effetti di lungo periodo, di riforme di lungo periodo che fossero efficaci, che fossero pensate adeguatamente, non se ne sono viste. E i confronti internazionali sono sufficienti, insomma, ci fanno vedere come altrove, in paesi molto diversi dai nostri, la Gran Bretagna è uno di questi, ma anche la Svezia è un altro esempio importante. La Svezia per lungo tempo è stata governata da governi di centrosinistra, socialdemocratici, eccetera, però sono entrambi paesi nei quali il trasporto locale e in esso anche il trasporto ferroviario locale sono assegnati, ove hanno bisogno di contributi pubblici, esclusivamente attraverso gara. È un sistema generalizzato, in Gran Bretagna ovviamente è obbligatorio perché non vi sono più imprese pubbliche che trasportano, che offrono il servizio di trasporto ferroviario, ma c'è solo la proprietà pubblica della rete ferroviaria, e quindi laddove vi sono sovvenzioni sono tutte assegnate tramite gara. Però anche in Svezia, paese nel quale vi sono due diverse imprese pubbliche, una che gestisce la rete e una che gestisce i principali servizi di trasporto, laddove vi sono sovvenzioni pubbliche necessariamente il servizio deve essere assegnato tramite gara, eppure essendo il principale operatore svedese di proprietà dello Stato, i privati, diciamo gli altri operatori, hanno raggiunto sul trasporto regionale almeno un terzo del mercato, questo è parecchio importante, facendo abbassare i costi di assegnazione del servizio. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando dell'indice liberalizzazione, la guida liberalizzazione 2011 dell'Istituto Bruno Leoni. Abbiamo avuto con noi Carlo Stagnaro del Bruno Leoni appunto, e il professor Arrigo che insegna Scienze delle Finanze all'Università di Milano. Intorno a questo esame comparato a 16 settori dell'economia italiana, siamo fermi, non stiamo conducendo passi avanti, magari anzi sono più numerosi i settori in cui facciamo passi indietro rispetto a il paese guida settore per settore europeo, quindi paese benchmark per fare le analisi comparate. Devo dire che nelle sms che arrivano al 349-238-6666 prevale la solita questione: Bersani 2008, la destra no. Benissimo, prendo atto che molti di voi il riflesso condizionato politico è quello che scatta immediatamente, il merito è quello che noi ci battiamo perché si radichi nelle vostre attenzioni, il merito delle questioni, non il colore politico dei ministri pro tempore, sennò mi toccherebbe di solito dire che anche quelle del 2008 erano su alcune categorie scelte, non esattamente quelle fondamentali per il balzo di produttività, ma erano delle bandiere per quanto io sono per liberalizzare tutto, però non vorrei riproporre sempre la solita questione lenzuolate sì, lenzuolate no. La questione è, per quello che ci riguarda, chiunque sia al governo, capire che l'equilibrio di un paese che cresce poco non si raggiunge stangandovi, che vi si additano come esempi politici, magari politici tecnici, non eletti, che fanno operazioni come le stangate 92-93, abbiamo alle nostre spalle il risultato di quella roba, per anni la domanda interna non si è più ripresa, ciò che vi viene additato come eroismo, cioè non rischiare i voti per stangarvi ulteriormente in tasse per anno e tasse per patrimonio, è la maniera per eternare il difetto pubblico del nostro paese, che ha già così elevata spesa e pressione fiscale e che invece deve diminuire entrambe, e contemporaneamente far liberare energie, che significa migliori condizioni di offerta e più occupati e migliore soddisfazione della domanda a più bassi prezzi per migliori servizi attraverso le liberalizzazioni, cioè abbattendo gli ostacoli all'ingresso in tutti i settori della vita italiana che invece sono presidiati da bastioni altissimi, quei bastioni altissimi che sono difesi dagli interessi di chi rappresenta l'offerta attuale e nei confronti della quale spesso voi dite difendiamola perché altrimenti noi perdiamo altri posti di lavoro. Questa roba è integralmente sbagliata e non riesce purtroppo a far breccia neanche nelle vostre menti, che preferite dividervi tra le lenzuolate del 2008 e le mancate lenzuolate di questi. Le mancate lenzuolate di questi, poiché in teoria dicono essere più liberali, sono ancora più gravi, ma sta di fatto che la questione è il merito. Sentiamo due rapide telefonate. Almerico della provincia di Cremona, prego Almerico. Buongiorno a tutti. Ascolti dottore, io proprio non è che me ne freghi più di tanto delle lenzuolate di Prodi o delle lenzuolate Tremonti e così via. Per quello che voglio dire è quando è che riusciremo a trovare dei politici che veramente fanno le cose utili al paese, perché le famose lenzuolate di Prodi erano utili al paese, non è che le facevano solo giustamente come dice lei, che cioè ci sono sempre queste categorie che cercano di essere più protette o meno, però quando è che noi riusciremo a avere veramente un politico, degli statisti veri e propri che riescono veramente a risolvere questi nostri problemi? Diciamo che è un auspicio che ci tocca condividere, per così dire. Naturalmente è la scelta anche degli organi parlamentari. Negli organi parlamentari, lo sappiamo, il peso di ciascuna di queste rappresentanze, ciascuna di esse legittimissima, è molto rilevante. A questo proposito abbiamo con noi Maurizio De Tilla. Maurizio De Tilla è un protagonista indiscusso del dibattito per quello che riguarda non solo la sua professione. Maurizio De Tilla è l'avvocato, il presidente dell'organismo unitario dell'Avvocatura Italiana, una figura di riferimento anche però del dibattito più generale ordinistico italiano. Mi limito a chiedere all'avvocato De Tilla, che è un protagonista anche nella difesa del fatto che non si debba, che si confonde molto spesso, questa è la sua tesi ribadita, per apertura al mercato, una specie di persecuzione agli avvocati. Io nel dargli la parola, per consentirgli ancora una volta, immagino, di ribadire questo principio, mi limito a ricordare ai nostri ascoltatori alcune differenze di fondo, per esempio tra due paesi che naturalmente hanno ordinamenti diversi, il nostro diritto codificato, loro common law. Però per esempio se paragoniamo l'Italia e la Gran Bretagna, l'Italia e la Gran Bretagna per l'avvocatura ha dei vincoli costituzionali della professione, ecco, in Italia ci sono naturalmente, nel Regno Unito non ci sono. Ci sono dei vincoli di cittadinanza per l'esercizio della professione, e naturalmente in Italia ci sono, nel Regno Unito non ci sono, e così via. Potremmo parlare di come ci sono limiti alla pubblicità, è un'apertura, è stata un'apertura in questi anni rispetto a come ci si può organizzare gli studi professionali e fare pubblicità. La libera contrattazione per la clientela nel Regno Unito è praticamente totale, da noi ci sono molti vincoli che restano, e tutto questo viene legittimamente difeso e giustificato di fronte alla caratteristica che gli ordini professionali e un ordine professionale come questo ha nella vita italiana. Ancora una volta, all'inizio di questa manovra bis, il governo ha fatto un passo avanti, l'avvocato De Tilla, gli ordini che rappresenta, si è battuto perché quelle norme non corrispondevano affatto a ciò che era stato, tra virgolette, premasticato in questi ultimi due anni con il ministro della giustizia Alfano, e ha ottenuto in buona sostanza la marcia indietro. Avvocato De Tilla, quando riusciremo a uscire da questa prospettiva della continua marcia del gambero, due passi avanti, due passi indietro, in direzioni sempre opposte? Anzitutto in Inghilterra ci sono 10.000 barrister che sono avvocati e 120.000 solicitor che fanno anche un'attività di intermediazione. In Italia abbiamo 230.000 avvocati, di cui 100.000 disoccupati intellettuali, quindi liberalizzare ancora ulteriormente mi sembra un paradosso. In Francia sono 46.000 gli avvocati, quindi in Italia bisogna restringere, perché si è fatta una liberalizzazione, un accesso per tutti, laddove la prestazione dell'avvocato deve essere una prestazione molto qualificata. L'avvocato difende nel processo, difende i diritti dei cittadini, quindi non è che noi siamo in controtendenza. In Italia già si è fatto in maniera ampliata quello che in altri stati viene annunciato ma nella realtà non viene fatto. Quindi noi abbiamo criticato non solo le lenzuolate del 2006 di Bersani sui minimi di tariffa, che poi tutelano anche le prestazioni minime, i giovani, il minimo della qualità della prestazione, ma abbiamo criticato anche quest'ultima manovra economica che equipara il professionista all'impresa. L'avvocato non può esercitare impresa, sarebbe gravissimo andarsi a far difendere penalmente da un soggetto che è anche impresa, con tutte le pericolosità delle infiltrazioni mafiose che ci potrebbero essere in questi grandi studi di servizi legali penalisti, tutte gli inconvenienti che ci possono essere in relazione al fatto che i conflitti di interesse, che sono basilari per gli avvocati, escluderli, e l'indipendenza rispetto anche alla committenza, perché l'avvocato non è che deve seguire la committenza anche commettendo delle violazioni legali, ha dei limiti deontologici. Allora tutto questo presuppone che vi siano delle regole, vi sia una certa legalità e che non sia che l'avvocato non sia un imprenditore che entri nel mercato con grandi capacità e che venga anche sanzionato se si comporta male. Qui sono d'accordo con le critiche che si fanno, che gli ordini non esercitano sufficientemente la disciplina, per cui la deontologia a volte è un pezzo di casta. Allora, io ringrazio l'avvocato Vettilla, mi tocca dire che non sono d'accordo sulla libertà di esercizio dello studio professionale anche in forma di impresa, ma questa è una questione culturale di fondo, non so se riusciremo mai a superare, nel mio arco vitale non credo, io credo che l'avvocato Vettilla l'abbia vinta, anche perché anche in questo caso poi gli avvocati si organizzano trasversalmente, sono molto presenti in Parlamento, possono farlo, è bene che lo facciano, lo fanno alla luce del sole, l'avvocato Vettilla si batte sempre alla luce del sole e il giorno che forse chi la pensa diversamente riuscirà a prevalere, non è ancora venuto, perché per il momento l'avvocato Vettilla è vittorioso. Ed eccoci tornati in studio, abbiamo con noi, ci ha raggiunto l'assessore ai trasporti, alle infrastrutture, alla mobilità e alla logistica della regione Piemonte, l'assessore Barbara Bonino, che saluto e ringrazio. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi, buona giornata e buona settimana. Noi ne abbiamo accennato al Piemonte proprio nella prima parte della trasmissione, perché nel trasporto regionale ferroviario la regione Piemonte ha le norme del 2009 che in buona sostanza davano un bel pacchetto, 490 milioni a sostegno del fatto che fosse l'incumbent a confermare le convenzioni 6+6 con le regioni, però la regione Piemonte fu una invece delle pochissime regioni che bandì la gara, era gestita a quel punto politicamente, il colore era diverso dell'amministrazione, cambio poi di colore politico alle elezioni, quando siete subentrati vi siete trovati in una condizione nella quale la regione Piemonte era un'eccezione da questo punto di vista, perché l'apertura al servizio ferroviario regionale era anche a privati, Arena Ways nel frattempo ha già consegnato i libri in tribunale per il fallimento, dissidio tra i soci, e punto che viene esaminato in questo report, perché si dice concedendo allo Stato la facoltà di considerare sussidiate anche tratte come che sono quelle a più alta densità di valore commerciale, la Torino-Milano per esempio, è ovvio che da questo punto di vista si può negare al privato l'esercizio delle stazioni intermedie, e in larga misura è stata questa una delle ragioni per cui Arena Ways ha chiuso i battenti, perché ha potuto incassare ancora meno denaro, meno biglietti sulle tratte che copriva sulla Torino-Milano. Risultato, dal punto di vista vostro, per lei che è assessore a dover gestire una situazione di questo tipo, la scelta dell'apertura, viste le conseguenze che ha portato, e quindi visto anche il fatto che poi vi trovate poi gente che protesta perché si trova senza la Trenitalia confermata dagli altri e col privato che ha chiuso i battenti, che esperienza rappresenta per voi e in quale direzione vi induce ad andare, assessore? Intanto ci sono questioni diverse che si sovrappongono e si genera anche un po' di confusione. Noi siamo convinti del fatto che la competizione comunque sul mercato, se gestita in maniera trasparente, certamente conduca a un miglioramento dei servizi e a una riduzione dei costi per la pubblica amministrazione. Quindi partiamo da questo assunto e partiamo dal presupposto che comunque il Piemonte, anche il Piemonte della giunta Lega PDL guidata dal governatore Cota, ha intenzione di bandire la gara per il sistema ferroviario regionale. Però la gara deve essere organizzata su tutto il Piemonte, mentre la gara precedente era organizzata soltanto su tre lotti. Corretto. Quindi voleva dire un Piemonte a doppia velocità, e questo non ci sembrava giusto anche nei confronti dei cittadini piemontesi. La gara verrà bandita fra il 2011 e il 2012, la nuova gara, e sarà una gara che avrà l'obiettivo di attrarre anche gli operatori internazionali per capire se effettivamente sul trasporto ferroviario regionale c'è un mercato interessato ad essere competitivo, perché questo è ancora tutto da dimostrare e noi lo cercheremo di verificarlo appunto con un bando di gara. Nel frattempo abbiamo chiuso un accordo con Trenitalia, un contratto ponte, perché ci siamo trovati a gestire una regione dove il servizio ferroviario era erogato dalla compagnia nazionale Trenitalia senza la copertura di un contratto di servizio. Sarebbe come avere il contratto del telefonino senza avere chiarito quali sono le regole con l'operatore e quanto si deve pagare, no? Quindi avevamo un contenzioso che valeva diverse decine di milioni di euro. Le cose si devono fare, ma si devono fare con ordine, e noi abbiamo cercato di rimettere un po' di ordine nel nostro sistema. Arena Ways è un altro capitolo, è un capitolo per noi molto doloroso, nel senso che è un'azienda che nasce dall'inventiva di un imprenditore del nostro territorio, e quindi ci piacerebbe vederla crescere e espandersi. Però Arena Ways lavora e agisce nel settore del libero mercato, non del servizio di trasporto regionale, vale a dire è un commerciale puro, e quindi gioca secondo regole che possono essere ritenute giuste o sbagliate, ma devono essere conosciute quando si fa impresa, e che in questo momento le tracce siano gestite all'interno della stessa holding del nostro operatore nazionale, vale a dire Trenitalia, e questo è noto. Può anche non piacerci, per esempio io credo che non sia giusto che sotto la stessa holding guidata dall'ottimo ingegner Moretti, che è persona di indubbia capacità e qualità, stiano sia la società che si occupa del servizio ferroviario e sia la società che gestisce l'infrastruttura, cioè che ha le tracce e che deve dialogare anche con gli altri operatori. C'è un'anomalia, no? In questa impostazione. La interrompo solo perché questa anomalia è da sempre ha da parte dell'incumbent, da Angel Moretti, la risposta: ma guardate che però i veri players del consolidamento europeo nel settore, cioè Deutsche Bahn, SNSF, i francesi, sono assolutamente integrati verticalmente, nessuno osa protestare, questo è il motivo per cui col cavolo che praticano la simmetria dell'apertura. E siccome io voglio considerarli, devo considerare i miei concorrenti nel consolidamento europeo di settore, devono essere loro i benchmark di riferimento per come è organizzato la regolazione e l'apertura del mercato. Come si risponde a questa obiezione, professor Arrigo? Si può rispondere prendendo ad esempio altri casi che in realtà sono molto migliori dal punto di vista delle performance e dei costi. Io in mente il caso svedese. Il caso svedese è un paese in cui sicuramente per molto tempo i governi sono stati di segno socialdemocratico, però in Svezia lo Stato nel 1988, quindi con largo anticipo rispetto a tutte le possibili direttive comunitarie di settore, ha separato a scisso il gestore della rete dal gestore del trasporto. Sono rimaste due aziende pubbliche, però nettamente separate tra di loro, e un anno fa addirittura il governo svedese ha congiunto la gestione della rete ferroviaria con la gestione della rete stradale svedese, e quindi da un lato c'è l'infrastruttura e dall'altro c'è lo svolgimento dei servizi. Le ferrovie svedesi, il sistema ferroviario svedese è il sistema che garantisce i minori costi per treno chilometro. Noi abbiamo fatto un'analisi, un libro una decina d'anni fa, e sostanzialmente veniva fuori che il costo per treno chilometro dell'Italia alla fine, all'inizio del decennio 2000, era circa il doppio del costo che si verificava in Svezia, che si verificava in Danimarca, ed era circa il 50% più alto del costo medio europeo, e questi costi qualcuno li paga, certo. Non li paga l'utente dei servizi, li paga il contribuente. Li paga il contribuente, certo. Quindi ancora una volta numeri concreti e comparati, e intellettuali che scelgano anche di dire, se il principe non è buono, che il principe vada cambiato, qualunque sia il suo colore politico. Sentiamo rapidamente ancora alcuni flash di ascoltatori. Giuseppe dalla provincia di Ravenna, prego. Giuseppe, come la pensa? Pronto, buongiorno dottor Giannino. La sua professione è molto interessante, anche perché sa, io faccio l'architetto e mi sono occupato di trasporti fino a qualche anno fa, ero funzionario di una regione e mi sono dimesso proprio perché non c'era modo di poter incidere sui costi del passeggero chilometro e in generale delle infrastrutture e della gestione di cui ha parlato il suo ospite prima. In realtà io ho telefonato per questo motivo. Ho vissuto con un certo fastidio le pubbliche affermazioni della Presidente degli industriali, la dottoressa Marcegaglia, sì, che parlava di come una delle cose che avrebbero potuto lanciare l'economia del nostro paese avrebbe potuto essere la liberalizzazione delle professioni. Sì. Io dico la verità, sono un architetto, mi sono iscritto all'albo a cui per legge siamo obbligati a iscriversi superando un esame di Stato. Sì. Nessuno mi ha impedito di farlo, semplicemente ho studiato, mi sono presentato una prima volta per vedere di cosa si trattava e la seconda volta l'ho superato. Io vorrei ricordare agli telespettatori quali sono gli obblighi degli ordini. In realtà sono quattro: la tenuta dell'albo, la deontologia, l'opinamento parcelle e fornire dei pareri alle amministrazioni nel caso queste dovessero in qualche modo chiederle. Nulla di più, non è una corporazione, non è un club privato, non ci sono ostacoli per accedervi. Il problema è un altro, che il lavoro non c'è. e quindi ci si può anche scrivere in ordini professionali, ma il lavoro per tutti purtroppo non c'è. E francamente il decreto Bersani, che ha come dire, imposto la non applicabilità delle tariffe professionali minime, non ha fatto altro che dare l'ultima massata al mondo delle professioni. Va bene, Giuseppe, lei difende gli ordini, anche qui la invito a leggere il capitolo dei 16 dedicato agli ordini professionali, in cui si distingue ordine da ordine rispetto ai paesi benchmark comparati. Gli ostacoli all'ingresso ci sono nel nostro paese, è un fatto, non è vero che rispondano solo a questioni deontologiche gli ordini così come sono, e hanno a che vedere con come si può esercitare la propria professione dal punto di vista societario nello studio, da ciò che si può fare e non si può fare, dai limiti che sono limiti all'ingresso. Il classico limite all'ingresso è uno dei obiettivi fondamentali per chi crede nelle liberalizzazioni. La concorrenza è l'abbattimento dei limiti all'ingresso, non è il numero dei player settore per settore. Questo è l'antitrust all'europea del professor Monti, che è una cosa un po' diversa da la concorrenza così come la consideriamo noi Chicagoers, per così dire. Bene, allora io vi posso ancora dire: chiamate Bruno Leoni o cercate su internet su Bruno Leoni per procurarvi l'edizione 2011 della Guida Liberalizzazioni. Grazie a Carlo Sagnaro che è stato con noi, grazie al professor Ugo Arrigo, alla signora Barbara Bonino, a Maurizio De Tilla, grazie a voi tutti, buon San Gennaro, Linea Generale Radio, appuntamento a domani.